Naturalmente la nostra piena solidarietà a Sigfrido Lanucci, il cui caso purtroppo rappresenta soltanto la punta di dell'iceberg, di un fenomeno molto molto diffuso in Italia e di cui si parla troppo poco. L'Ossigeno per l'informazione è nata nel 2006 proprio per censire e verificare con un metodo molto attento e rigoroso il fenomeno delle minacce ai giornalisti. Ne abbiamo contate quasi 8.000 dal 2006 al 2024, registrandone una media di 400-500 l'anno. Il 28 febbraio, in vista della giornata internazionale per mettere fine all'impunità di chi minaccia e attenta alla vita dei giornalisti, presenteremo dei nuovi dati che segnalano un preoccupante aumento in queste intimidazioni e queste minacce. In particolare, per scorporare i nostri dati, il 41% di questi 7.500 casi dal 2006 al 2024 sono costituiti di avvertimenti, il 14% aggressioni, il 4% di danneggiamenti e in più si aggiunge un altro fenomeno ugualmente preoccupante e lesivo della libertà di informazione di tutti noi, per tutti i cittadini, ed è quello degli abusi, delle denunce e delle azioni legali pretestuose, che sono il 37% dei casi che registriamo. Le cosiddette querele temerarie, che sono penali, possono essere penali ma anche possono essere cause civile, con chi le porta avanti, le inizia queste cause, è pronto, chi fa queste cause chiede anche risarcimenti stratosferici per presunti casi di diffamazione, che in realtà, una volta finito il procedimento legale, questi casi si dissolvono nel nulla, perché questi processi finiscono nel 90% in assoluzioni o proscioglimenti del giornalista. Però nel frattempo questo giornalista, visti anche i tempi lunghi della nostra giustizia, si sentono sotto scacco per anni e anni finché il procedimento non si conclude, e nella maggior parte dei casi devono essere loro a pagarsi le spese legali per questo. Perché? Perché non hanno le spalle coperte da un editore, come dovrebbe essere, in quanto ormai nelle redazioni di cronaca, dove appunto ci sono più casi di querele temerarie e minacce, provano soprattutto giornalisti non contrattualizzati, e questo vuol dire che devono essere loro a sostenere le spese legali, migliaia e migliaia di euro. Per questo è importante che per difendere loro ci sia un maggiore impegno di tutti, ma anche delle istituzioni, per dare loro un sostegno finanziario. Noi come Ossigeno per l'informazione abbiamo proprio un servizio di assistenza legale, con la quale forniamo degli avvocati qualificati a chi ne ha bisogno, cerchiamo di sostenere le spese legali, e questo servizio lo stiamo facendo con un'organizzazione internazionale che si chiama Media Defense. Lei prima faceva riferimento a dati che sono, insomma, anche in aumento purtroppo in questo 2025. Da cosa è determinato? Dal clima generale? Personalmente credo che sia determinato non soltanto dalla criminalità organizzata, anche se anche questo è un fenomeno preoccupante. Dai nostri dati, per esempio, emerge che la maggior parte dei casi di minacce e intimidazioni di carattere fisico avvengano in Lazio, cioè in Lazio c'è oltre 1.621, in Campania. Quindi c'è una criminalità organizzata che non si vede, ma che agisce lo stesso. Però l'altro fenomeno, ed è quello che avviene soprattutto sul piano delle querele temerarie, è quello degli amministratori della cosa pubblica, soprattutto a livello locale, che rispondono in questo modo a inchieste scomode e a verità scomode. Quindi è un fenomeno diffuso anche nel mondo politico, da parte di appunto amministratori, figure pubbliche che si sentono disturbate da inchieste troppo attente. E a questo si aggiunge, a mio avviso, anche un clima generale di delegittimazione del lavoro giornalistico, delegittimazione che avviene, ed è questa la cosa più preoccupante, proprio dal mondo politico, che in un'ottica di scambi, di confronti faziosi, finiscono per accusare i giornalisti che riferiscono semplicemente di quello che accade, cercando di portare i giornalisti in una rissa che nulla ha a che fare con l'accertamento della verità dei fatti, che è il loro primario interesse, che è la loro primaria funzione, che è una funzione pubblica, è una funzione a servizio dei cittadini, perché i cittadini devono sapere per poter attivamente partecipare alla vita pubblica. Ecco, io credo che questa delegittimazione dei giornalisti, che sta andando avanti da anni e che agli occhi della pubblica opinione tende a sminuirne la figura, questo rappresenta diventa il clima, è un terreno fertile perché chiunque, che sia il criminale che fa parte di un gruppo di criminalità organizzata, che sia il delinquente comune, che sia l'amministratore disturbato dal fatto che qualcuno sta indagando su fenomeni di corruzione, questo fa sì che si sentano più, come dire, più autorizzati a cercare di fermare quel giornalista. Dal vostro ultimo report leggevo che l'Italia in Europa purtroppo è maglia nera, è il paese con più giornalisti minacciati. Certo, è un paese con molti giornalisti minacciati, anche se noi siamo convinti che in fondo in Europa non siamo gli unici. E non lo dico soltanto perché pochi giorni fa c'era l'anniversario dell'uccisione in un attentato a Malta di Daphne Caruana Galizia, cronista che indagava sul malaffare dei politici maltesi. Ma perché noi abbiamo tutti questi dati? Sostanzialmente perché noi abbiamo messo su un osservatorio e abbiamo sviluppato un metodo di indagine molto rigoroso e scientifico che ci permette di portare alla luce questi fatti. Altri paesi questo servizio che noi svolgiamo in realtà non ce l'hanno, non l'hanno mai sviluppato, e così si mostra anche dell'Europa, no? Un'immagine abbastanza deformata e non veritiera, perché come noi abbiamo la mafia, questa stessa mafia o altre forme di criminalità organizzate vi sono anche in altri paesi europei. Come io sono convinta che il malaffare dei politici non sia una questione soltanto italiana, ma sia generalmente diffusa. Si tratta appunto di individuare gli strumenti giusti per monitorare e censire e cercare di fermare, dunque, con un'azione politica, ma anche legislativa adeguata a questo fenomeno. Per fortuna, avendo noi questo passato molto pesante, che è quello dei giornalisti uccisi dalla mafia, dal terrorismo, sono stati 11 in Italia dagli anni 60 agli anni 90. E proprio per questo fenomeno delle minacce che continuano, e non occorre che citi con voi i casi più eclatanti che anche dei nostri giorni, per fortuna la legislazione italiana si è attrezzata bene, non soltanto perché ha dietro di sé, è come dire, il lavoro delle procure antimafia, eccetera, ma anche proprio si è attrezzata per la protezione dei giornalisti. Infatti ne abbiamo almeno una ventina sotto scorta, fra cui lo stesso Ranucci, quindi siamo fra virgolette attrezzati. Ma oltre questa ventina di giornalisti ce ne sono mille altri, migliaia di altri che lavorano nell'oscurità, soprattutto nelle cronache di provincia, che non hanno questo tipo di tutela e magari si ritrovano la macchina danneggiata o le minacce che gli arrivano sulla porta di casa. Ecco, quindi credo che tutti noi dobbiamo essere consapevoli di questo e chiedere al mondo politico una maggiore attenzione a questo fenomeno.